il significato spirituale della festa Chanukah di Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Vi racconterò la storia e il significato spirituale della festa Chanukah, che è la festa in cui durante 8 giorni viene accesa una luce extra. Intorno al 165 avanti Cristo, gli ellenisti vennero ad est. I governanti di quel tempo avevano origini greche, ma c'erano anche influenze del popolo siriano, perché avevano conquistato anche Israele. Ovviamente il popolo di Israele si stava ribellando. Ma una famiglia in particolare che aveva affermato la vittoria aveva fatto di più. Siate consapevoli che non stiamo parlando di esperienze umane personali, ma principalmente di forze che stavano lavorando in quei giorni. Qual era la ragione di tutto questo? Non è importante l'evento, ma le forze che erano attive durante questo periodo. Qualunque cosa sia accaduta con Israele, doveva accadere. Le forze dovevano manifestarsi qui sulla terra. Tu devi conoscere tutte le forze spirituali dovevano venire un giorno sulla terra. Ebbene, la terra ne ha bisogno e tutte le forze sono scese qui. Non ci sarà alcuna apocalisse, ma sii consapevole. Ciò che il superiore non vede come un'apocalisse non significa che noi non la vivremo come un disastro. Ma ciò che è scritto nel libro sull'Apocalisse, questo non accadrà. Tutte le forze di cui ha bisogno la terra sono qui. Certo, ci sarà un focolaio, ma le forze superiori sono pronte. L'evento in Israele nell'anno 165 avanti Cristo doveva accadere. La storia non è importante, non è rilevante, ma sappi che doveva accadere. La festa di Chanukah è il simbolo della riconquista del Tempio e di una famiglia di sacerdoti che l'ha compiuta e in seguito ha ripulito il Tempio. Tutte le occupazioni, ciò che avevano fatto in passato, dovevano essere cancellate. La maggior parte di voi sa del candelabro che ha posto per 7 candele. Si chiama Menorah e durante quel periodo avevano bisogno di olio per accendere le candele e farle bruciare. Ecco, tutto è spirituale. Non c'era olio, perché doveva essere un olio molto speciale, e la storia ci dice che era rimasta solo una bottiglia di questo olio speciale, sufficiente per bruciare una candela. Deve sempre esserci un accordo tra il piano spirituale e quello fisico. Di cosa si trattava? Il mondo era nell'oscurità spirituale. Era il momento del mondo ellenistico e questo mondo era incentrato sulla cultura, l'arte, facevano molte statue. Le persone erano concentrate sul loro bodybuilding. Ovviamente questa era aveva portato molte cose buone, ma il problema era che avevano dimenticato il mondo spirituale. Solo il mondo esteriore era importante. Il più alto adagio del greco era lo standard di bellezza. È scritto nell'Antico Testamento che il secondo figlio avrebbe portato la bellezza. E in effetti la generazione di David aveva portato al mondo occidentale molte cose belle, ad esempio arte e cultura. E il terzo figlio, Shem, teneva strette le forze spirituali. Era il tempo dello sbocciare della bellezza, ma senza Shem rimane solo la bellezza esteriore. Questo è ciò di cui stiamo parlando. Questa è la legge delle forze. A un ebreo era proibito tenersi impegnato con l'arte, la cultura, eccetera. Perché? In questo modo si ha la possibilità di fare descrizioni dall'interno. Una descrizione tra lui e la forza interiore, e questa è l'idolatria. Facendo descrizioni si ha la possibilità di inquinare il patto che abbiamo fatto con la fonte. Fisicamente non è più importante, riguarda il popolo ebraico, i desideri altruistici. Il greco dominava Israele, il che significa che il popolo di Israele non poteva più lavorare in modo spirituale su se stesso. Era il lavoro spirituale che veniva oppresso. I desideri esteriori ed egoistici erano molto più importanti della condizione dell'anima. Quando parliamo del greco, sappi che non parliamo del greco esteriore, ma della condizione esteriore dentro di me. Ma il popolo ebraico si teneva occupato con l'esterno, con la cultura e l'arte. Ma una volta che si è coinvolti in questo, non si può realizzare il proprio obiettivo e di conseguenza si cade nell'oscurità. La festa di Hanukkah è quindi la festa che commemora l'illuminazione parziale degli uomini. In quel momento qualcosa venne dall'alto. Le forze spirituali scesero sulla terra. Niente scompare nello spirituale. C'è una legge che ci mostra che non nulla scompare nel piano spirituale. È la legge universale che tutto sarà ancorato per l'eternità. Ogni anima che discende qui sulla terra non sarà mai persa, anche ciò che hai appena letto sarà lì per sempre. Ci sono 8 luci, un servo accende le candele, una più alta delle altre, una deve accendere l'altra. Il servo che accende le candele serve gli altri, si fa piccolo e solo così, rimpiccolendosi, può servire gli altri. La prima sera è la luce di Shamash, la luce di Chokmah. Questo è il seme della luce che viene sulla terra, la sefirah più piccola, Malkut. Tutto deve essere corretto, e la via delle correzioni va dal più sottile al più grosso. Prima correggiamo i nostri piccoli desideri e poi i desideri più rudi. Ci vuole più luce per i desideri più rudi. Abbiamo bisogno della luce per superarli. Puoi paragonarlo a un gonfiore. Quando il gonfiore è piccolo, abbiamo bisogno di poca medicina, ma quando il gonfiore diventa sempre più grande, abbiamo bisogno di qualcosa di più pesante, la chemioterapia, per esempio. E c'è un altro paragone. Supponiamo che uno non beva mai e beve solo un bicchiere, gli basta, ma per qualcuno che beve regolarmente vuole più bicchieri. In tutto possiamo vedere la via dal più debole al più forte. le donne hanno causato la diminuzione della luce. Non parliamo di donne fisiche, delle donne fisiche, solo di forze. Le forze femminili sono i desideri egoistici. Considera che abbiamo bisogno di entrambi, maschio e femmina. La donna accende la prima candela di Chochmah di Malkut e il giorno dopo accende Yesod, quindi due candele bruciano. In questo modo lavoriamo da sinistra a destra. La luce è accesa e andremo a fare esperienza. Tutte le luci si accenderanno finché non avremo raggiunto gli 8 giorni, l'ultima candela. Tutta la luce proviene da Chochmah, e Chochmah significa saggezza. Abbiamo 10 Sfirot. Tutto è 10. Nella singolare luce del Creatore ci sono 10 sapori, sapori, Keter, Binah, eccetera. Sono variazioni della luce. Più scendiamo le scale, più diventa grossolana. Le 7 Sfirot più basse sono più rozze, e la più rozza è Malkut. Anche una parte di Binah è al piano di sotto. Binah si è divisa. La sua parte superiore vive vicino a Chochmah, quindi ha sempre luce. Questo è l'essere umano che ha in sé tanto la parte maschile quanto quella femminile. Quando un uomo pensa di avere solo il maschile in lui, non può portare alcun frutto. È stato lo stesso durante la Seconda Guerra Mondiale. I macho stanno rovinando tutto, possono solo rovinare. Abbiamo bisogno di entrambi, il maschio e la femmina, anche se c'è una differenza. La parte maschile all'interno di una donna è femminile e la parte femminile all'interno dell'uomo è maschile. Tutto è qualitativo, ma hai entrambi dentro di te. Un terzo dei punti di forza superiori rimane con Chochmah. Da Chochmah riceviamo la luce. Come ci arriva la luce? Deve esserci una fusione sia fisica che spirituale. La luce deve penetrarti, una fusione con la luce. Una fusione sbalorditiva. Zivug de Akach. A quel punto la luce può entrare. È lo stesso nel nostro mondo. Un uomo fa la proposta, la donna dice di no, ma lui continua a provare e alla fine lei dice di sì. È lo stesso nello spirituale. Un terzo di Binah è in alto. 2/3 della Binah scende in basso, verso i suoi figli. I prodotti di Chochmah e Binah hanno le qualità dei loro figli. È lo stesso nel nostro mondo. Guarda una donna che sta giocando con suo figlio. È facile per una donna farlo. È Binah che sta discendendo. Keter, Chochmah e Binah sono i desideri altruistici e sotto questi desideri vediamo i desideri egoistici. Il desiderio di ricevere. Keter, Chochmah e Binah non hanno bisogno di ricevere, ma tutto ciò che è sotto Keter, Chochmah e Binah è il bisogno di ricevere. Sono il prodotto di Malkut, vogliono ricevere. Le prime 3 forze sono altruistiche, poi gradualmente la forza diminuisce. Keter è 100% altruistica, Chochmah il 99%, e con Binah vediamo l'inizio della forza della limitazione. Chochmah è un po' più grossolana, anche se ancora molto fine, ma con Binah abbiamo già la sensazione di resistenza. A volte Binah arriva in basso per aiutare l'inferiore a venire alla luce. Vedi la somiglianza con il nostro vedi la somiglianza con il nostro mondo. Prima ci fu l'oscurità. Il tempo degli ellenisti era un periodo di oscurità spirituale per le persone. Una grande parte del popolo ebraico aveva dimenticato la Torah. Anche loro costruivano centri fitness. Anche loro pensavano solo al corpo fisico. Erano interessati solo al corpo fisico e andavano sempre meno al tempio. Ecco perché divenne un periodo di oscurità. Non pensare che i greci fossero persone cattive. Ricorda, tutta la miseria è dovuta e al fin di bene. Ci sono sempre due parti nello spirituale ed entrambe possono essere in armonia. La contraddizione è solo qui sulla terra, ma nello spirituale c'è solo armonia. Tutta la miseria era dovuta agli ebrei e tutta la miseria è per il bene degli ebrei. Riesci a vedere quanto è splendido questo? Quando gli ebrei avrebbero dovuto adempiere al loro compito, non sarebbero stati di alcun interesse per il greco. Se l'ebreo avesse investito il suo tempo nella Torah e non altrimenti, dedicando il suo tempo al bodybuilding, eccetera, il greco avrebbe ricevuto la luce. Ma quando un ebreo trascura il suo lavoro ed è interessato solo al suo corpo fisico, il greco non può ricevere la luce. Il servizio del Tempio è diviso in tre livelli. Prima abbiamo i sacerdoti, poi il Levita e il terzo livello Israele. Questo è il modo in cui la luce arriva al di sotto. Viene dall'alto verso il basso. Possiamo vederlo nei 10 Sfirot. L'essere umano è come 10 Sfirot. I tre superiori sono gli ebrei spirituali. Keter i sacerdoti, Chochmah Levita e Binah Israele. Ciò che resta sono i 7 Sfirot. Ogni Sefirah ha 10 Sfirot. 7 volte 10 fa 70. 70 radici delle nazioni qui sulla terra. 70 radici e accanto a queste 70 nazioni vediamo molte sottonazioni. È compito degli ebrei trasmettere. Quando trascurano il loro compito, allora la miseria e la sofferenza sono la conseguenza. Ovviamente non è solo un problema degli ebrei, ha anche a che fare con il progresso delle nazioni. Non pensare che l'ebreo abbia una posizione privilegiata, perché si trova a un livello spirituale più elevato. Devono fare questo lavoro, è la legge. Vedi l'ebreo come il capo e le nazioni come il corpo. C'è qualche vantaggio? Cos'è un corpo senza testa? E cos'è una testa senza un corpo? Un ebreo può giungere al suo adempimento solo una volta che anche le nazioni lo hanno raggiunto. Perché? Quando solo la testa arriva al suo compimento, allora i tre Sfirot sono molto vicini al Creatore. Sembra meraviglioso, ma sono solo tre Sfirot. Solo quando tutti e 10 gli Sfirot sono con il Creatore, abbiamo la realizzazione, sia per l'ebreo sia per gli altri. Come nazione siamo una. Nella spiritualità c'è solo unità. Tutto nasce da un'anima. I 10 Sfirot, i primi 3, l'ebreo, ognuno di noi ha queste 10 Sfirot, indipendentemente dalla tua origine. Quando usiamo la parola Israele, non parliamo della terra di Israele. il significato della parola Israele è andare direttamente al Creatore. È un attributo molto vicino al Creatore. Questo è ciò che intendiamo quando parliamo di Israele e niente altro. Ogni essere umano ha queste due forze, la forza di Israele e la forza delle nazioni del mondo. I figli di Binah, o in altre parole, i nostri desideri egoistici. Ovviamente ogni nazione è unica e insieme formiamo il caleidoscopio del Creatore. La candela che abbiamo acceso per la prima volta è Malkut, la più piccola, e poi accendiamo quella successiva. La più brillante è Chokhmah, perché tutto proviene da Chokhmah. È molto importante imparare a distinguere qual è la prospettiva di cui parliamo. Parliamo della via dall'alto verso il basso, o parliamo della via dal basso verso l'alto. Cerca di distinguerlo, altrimenti non può esserci alcuna comprensione della Torah. Luci, prima Malkut, la luce più piccola, va Yesod e Hod, fino a Keter. Kelim, i desideri, la luce dal basso, va prima Malkut, e da qui a Yesod, Hod, eccetera. Cominciamo con il più semplice. Il Kli è il ricevitore e all'interno di Malkut abbiamo i desideri più aspri e duri. La luce viene dall'alto, prima entra in Keter, poi in Chokhmah, Binah, eccetera. La prima luce è la luce più piccola, è la luce di Malkut, perché anche la luce deve essere divisa. La luce ha diminuito la sua forza. Per prima cosa dobbiamo imparare a maneggiare la luce, a goderci la luce, dopodiché possiamo riceverne sempre di più. La Sfirah Malkut è la prima ad essere riempita, poiché la prima significa la luce più bassa. Keter è al piano superiore ed è l'ultima ad entrare nella nostra coscienza. Prima Malkut, la luce più bassa, e da qui possiamo andare oltre, in alto, verso la luce più brillante. Vedi le 8 Sfirot come il tuo spazio interiore. La luce entra per prima in Malkut, è una piccola luce, e possiamo arrivare all'esperienza di questa piccola luce. Malkut sono i desideri più rudi, e basta questa piccola luce per rendere trasparente Malkut, per illuminarla. Una volta che tutte le luci sono qui sotto, tutto andrà al posto giusto. La luce arriva dall'alto verso il basso. Considera la tua Malkut come un compartimento di consapevolezza. Malkut accende Yesod e la luce entra in Yesod. Dobbiamo partire dal basso, altrimenti la luce non può raggiungere il proprio posto. Iniziamo sempre da sinistra a destra, da Malkut a Yesod, da Yesod a Hod, da Hod a Netzach, eccetera. Capisci che c'è solo l'adesso. Non pensare mai alle cose accadute in passato. Prima i greci conquistarono Israele, e poi vennero i romani, ma non stiamo parlando di persone. È tutta una questione di vittoria in se stessi, la vittoria del male in se stessi. Questa è la vittoria di cui parliamo. Non è il greco o il romano il nemico. Ho un solo nemico, il mio male. Certamente gli eventi del passato sono la nostra storia, ma non il nostro vero nemico. Devi cambiare il tuo male in bene. Cos'è il male? Il male è solo una carenza temporanea. è una mancanza della correzione per vedere il bene dietro il male. Più ti correggi, più bene vedi. La nostra prima correzione è una correzione facile, e poi le correzioni diventano più pesanti. In Malkut non vediamo assolutamente la forza creatrice. In questa parte siamo completamente separati dalla santità. Solo in questa separazione dalla santità possiamo vedere che nessuno di noi è in grado di salvare se stesso. E da questo punto più profondo dentro di noi, dalle delusioni più profonde, vediamo che non c'è alcuna possibilità di venire alla luce. Dall'interno deve esserci il grido più profondo, solo allora arriva la luce. Siamo tutti uguali e il Creatore desidera che noi, come partner alla pari, desideriamo ardentemente Lui. È il Creatore che ha creato ogni cosa, e spetta a me lasciarlo entrare. Ma non abbiamo ancora la conformità con la luce, sebbene le religioni ci dicano il contrario. Devo venire all'esperienza, devo sentire il desiderio, e il desiderio della luce deve essere così tremendo che così ora posso avvicinarmi a lui in ugual misura. L'amore ha molte vie, molte qualità. Amo mio figlio, ma lo mando via. Non dico resta con me. Devo lasciarlo andare, così ora anche lui può diventare indipendente. Dobbiamo sviluppare un amore indipendente. È lo stesso nella nostra relazione con il Creatore. Stiamo dimorando nella luce, ma era il suo desiderio. Così ora possiamo arrivare all'amore indipendente per il Creatore, per risalire come partner alla pari. Tutto è predestinato. È una nostra scelta cosa fare. Scegliamo il bene o il male. Questo è l'essere umano. È a sinistra o a destra, è con la luce o è nell'oscurità. Abbiamo bisogno di entrambi, prima di reagire, dobbiamo scegliere e attraverso la scelta saremo ricompensati. Puoi sperimentare più luce solo quando vai sempre più in alto e la tua esperienza deve essere nell'adesso e non nell'aldilà. Le persone erano mantenute ignoranti e anche questo era necessario. Proprio come una madre che dice a suo figlio «Mangia, così dopo sarai forte come tua madre o tuo padre». Questa è la via per arrivare alla vera esperienza della luce. Non siamo interessati alle tradizioni, ma devi conoscere i processi spirituali che sono coinvolti. Posiziona e sostituisci tutto nell'adesso, non nel passato. Sperimenta l'adesso, devi sentire ogni esperienza nell'adesso. Solo questo momento è reale. Solo così puoi entrare in contatto con lo spirituale. Quando il Creatore non dà ancora qualcosa a una persona, chi sono io per dire quali istruzioni deve seguire o per dire cosa sta facendo di sbagliato? Non farlo mai, non giudicare mai, perché sei tu che non ricevi la luce. Renditi piccolo, umile. Qualunque sia la tua religione, ognuno di noi pensa che la sua religione sia la migliore, ma nonostante la sua religione, deve avvicinarsi in modo personale all'esperienza della luce. Ognuno di noi deve rendersi trasparente, aperto alla luce per godere del Creatore. per godere della vita eterna. Non nell'aldilà, ma in questa vita. Solo quando viviamo nell'adesso, possiamo sperimentare il bene e il male. Solo quando viviamo nell'adesso possiamo sperimentare il bene e il male. Sperimentare le forze nell'adesso produce la giusta reazione, solo nell'ora che puoi sperimentare. Quando parliamo del giorno e della notte, intendiamo che il giorno è come la luce e la notte come l'oscurità. Vai a dormire il prima possibile. Lasciate che vi racconti una storia. Parla del tempo del comunismo in Russia, quando qualcuno voleva iscriversi al partito, doveva rispondere ad alcune domande. Smetterai di bere? Sì, certo, bevo solo quando vado alla festa. Smetterai di fumare? Sì, certo, fumo solo quando vado alla festa. Smetterai di guardare le donne? Sì, certo, niente più donne per me. Infine, l'ultima domanda. Rinuncerai alla tua vita per il tuo paese? Naturalmente, che è rimasto della mia vita? Anche noi dobbiamo sapere cosa stiamo facendo. Smetti di fare cose che ti impediscono di raggiungere il tuo grande obiettivo. La mattina presto la luce sorge, Chesed sorge, la pietà, e splende tutto il giorno. Dopo l'alba arriva Gevurah, l'aspetto femminile e la limitazione. Durante la sera la luce è limitata dall'aspetto femminile, Gevurah. Questo è un principio e i principi sono lì per ognuno di noi, ovunque tu viva su questa terra. Quando è giorno per te, è presente Chesed, e quando è notte per te, è presente Gevurah. È semplice. E verso mezzanotte alle 12 c'è una forza speciale, è la forza della gentilezza. Questo è un momento molto speciale. Vedila in questo modo. Quando ti tieni occupato in questo momento in modo molto consapevole e chiedi al Creatore, acceleri il tuo processo, perché durante questo momento ricevi i tuoi kelim. Quando preghi di notte, ricevi una piccola luce sotto forma di un kli. Kli è un organo di consapevolezza e quando la luce sale e la luce di Chesed entra, hai già un vaso per ricevere la luce. È così facile. Chesed brilla tutto il giorno e quando ho un posto per ricevere la luce, mi sono reso aperto, trasparente. È l'ora della mezzanotte e l'ora della mezzanotte è il momento migliore per rendermi trasparente, suscettibile. Quando si fa mattino, hai già un posto dove far entrare la luce di Chesed, della misericordia. Quando preghiamo la sera, creiamo i kelim per il giorno. Siate consapevoli che dietro ogni tradizione c'è la forza creatrice. Non si tratta della tradizione. La tradizione non significa nulla in sé. È tutta una questione di forza all'interno, della tradizione che purifica. Cosa verrà purificato? Saremo purificati da tutti i nostri desideri egoistici. Lascia che vi faccia un esempio da questo mondo. Lasciate che vi faccia un esempio da questo mondo. Prima c'era il petrolio greggio. Il petrolio greggio non brucia così bene. L'olio deve essere raffinato in modo che possa bruciare bene. Più l'olio è raffinato, migliore sarà la combustione. È lo stesso con noi. Più siamo purificati, più luce può entrare dentro di noi. Abbiamo bisogno di un posto per ricevere la luce. Dobbiamo liberare un posto interiore per ricevere la luce. Riguarda tutta la forza interiore. Il vero uomo è colui che si apre, si libera per la luce infinita, Ein Sof. Renditi piccolo dall'interno, allora riceverai dall'alto. E questo è il tuo lavoro personale, nessun altro può farlo per te. Ricorda e metti a cuore tutte le parole che tiro fuori dalla mia bocca. E ricorda e metti a cuore tutte le parole che tiro fuori dalla mia bocca. Sono parole cabalistiche, non c'era una parola che riguarda un rituale. Ogni sera mettiamo le candele della Canucha partendo da sinistra verso destra. Parlo solo delle leggi dell'universo, non della tradizione. Non è importante dove si trovi lo shamash, anche se preferisco che sia di lato e non al centro, ma ancora una volta non è importante. Con lo shamash accendi le 8 candele e le candele sono kelim. Il primo giorno metti lo shamash e la luce corrisponde a Chokhmah. Quindi la prima candela parte da sinistra, perché la sinistra corrisponde a Malkut. Il secondo giorno metti la seconda candela, che corrisponde a Yesod, e metti questa candela accanto alla prima candela. La terza candela, giorno, corrisponde a Hod, la quarta Netzach, la quinta Tiferet, la sesta Agvura, la settima Chesed e l'ottava Binah. Lo shamash si distingue perché per 6.000 anni non possiamo ricevere la vera Chokhmah, ma solo Chokhmah di Binah. Quello che possiamo ricevere è Chokhmah di Binah. Chokhmah di Chokhmah e superiore a questo può essere ricevuto solo dopo l'arrivo del Mashiach. Quindi lo shamash è in disparte, ma in un certo senso è presente e viene da noi un piccolo splendore di Chokhmah. Il primo giorno è Malkut, la luce arriva sempre al Kli e ogni giorno c'è più Kli. A Gerusalemme ho sentito la seguente storia di un grande vecchio rabbino che era ancora molto sveglio. La sua memoria era eccezionale, perché più impari la Torah e la Kabbalah, più forte diventa la tua memoria. Aveva più di 80 anni e aveva scritto molti libri, anche su Chanukah, dove posizionare la Chanukah e le candele. Mi ha detto che ogni anno, quando l'ora di Chanukah si avvicinava, era preoccupato. Non era sicuro di come farlo, e lo aveva chiesto ad altri. Questo è un buon esempio di come avvicinarsi a Chanukah ogni anno. La prima candela la imposti a sinistra, perché i kelim devono essere aumentati dal basso verso l'alto. Domanda: non apprendiamo nello Zohar che la luce va prima che Keter? Sì, voglio farlo, ma si fa confusione. Se Malkut viene prima, è nel Kli Keter, ma è solo quando non tutte le luci sono presenti, ovvero quando non c'è la sequenza corretta di luci e Kelim. Quando la luce entra solo in un Kli, il che significa che solo un Kli può ricevere la luce, è il Kli Keter con la luce di Malkut. Ma quando tutte le luci sono arrivate, c'è la sequenza corretta. Finché questo non viene fatto, non c'è la sequenza corretta tra luci e kelim. Quando tutte le luci sono entrate nel kli, la luce di Keter Yehidah entra nel kli Keter, eccetera. Ogni kli ha 5 o 10 scomparti. Lo impareremo oggi. Se c'è un solo compartimento, la prima luce entra nel kli Keter. La più bassa entra nel kli più alto, ma quando tutte le luci sono nel kli, l'ultima luce è la luce Keter. E questa luce Keter entra nel kli Keter perché tutto deve corrispondere. Ma prima non corrisponde e la luce di Malkut leggera entra nel kli Keter. Quindi, nella prima notte, a sinistra la luce di Malkut entra nel kli Keter. Il secondo giorno rappresenta la luce Yesod. Da sinistra a destra sono i Kelim che sono costruiti e Or Choser, la luce riflessa, aumenta. Nel primo giorno c'è la forza di riflettere una luce. Nel secondo giorno ci sono più Kelim, che significa più forza per riflettere la luce. Sopra lo Shamash c'è Keter, e sopra Keter c'è Ein Sof. La luce entra a seconda della forza di riflettere. Ogni giorno accendi una nuova candela, e l'ottavo giorno può essere ricevuta la luce più alta. L'illuminazione va da destra a sinistra. Perché? Poiché la luce viene dall'alto verso il basso, in basso è a sinistra e in alto a destra. Da sinistra arriva Or Choser. Or Choser è la forza di riflettere la luce, e da destra arriva la luce in arrivo. Se lo fai in questo modo, sperimenterai un pezzo di Kabbalah. Il mio apprendimento era tradizionale. Come comportarsi durante Chanukah era in modo tradizionale, ma la mia testa non era adatta a questo. Una volta ho imparato le leggi tradizionali, ma non ho potuto vedere il Creatore. Solo quando lo compio in modo cabalistico sento il Creatore. Il mio consiglio per te è di lasciare andare la testa, altrimenti è impossibile sentire il Creatore. Per me è sufficiente sentire il Creatore e il resto viene dallo Zohar. Forse qualcuno di voi conosce molto bene le leggi. Quale stoppino di candela è necessario? Per me va troppo oltre. Ci sono così tanti materiali per gli stoppini. Per sapere quale stoppino è necessario, così via, con quello non sento il Creatore. Qualunque cosa io faccia, voglio sentire il Creatore. Fai lo stesso in tutto quello che fai. Qualunque cosa tu faccia, senti sempre il Creatore. Lo Zohar è la fonte della nostra vita, dalla quale riceverai tutta la luce.